Barisone è diventato vicepresidente, no? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Donato, porco maiale, ti uccido io fra un paio di giorni, non fra 30 anni o fra 20 anni, te lo uccido io con le mie mani. Con le mie mani. Coglioni, che sei un porco, sei un pezzo di merda! Ti uccido io, coglione, fra un paio di giorni, te lo uccido io! Te lo giuro che ti uccido io, pezzo di merda! Donato di cazzo, figlio di puttana! Te lo uccido io con le mie mani! Pezzo di merda! Capito? Buonasera, Cruciani. Questo WhatsApp è solo per te che sei sempre solito emerito cazzone. Parenzo la pensa come me. Al poliziotto sul lato strada non bisogna fargli niente, gli dice che qua a Bodrina il negro di merda e così via, è perché quando mala all'altro lì a Bolzano, cosa vuoi che ha detto? Pezzo di merda, feccia, girati, io vorrei fare il poliziotto e fermare te, dito, pezzo di merda, metti a terra, stai zitto, stronzo, stronzo. Tu che cazzo stronzo faresti? Sei proprio un imbecille. Totalmente imbecille. Non pensavo che eri così fascistone di merda. Un abbraccio a Parenzo. A te tagliati i capelli dove fai schifo. Con tutti gli anni di schifoso che tiene coppia in mano. Che cazzo vuoi dimostrare? Coglione. Coglione. Coglione. Accoglili a casa tua, ma quale demografia, cazzo? Ma adesso, cioè, noi dobbiamo accogliere gli immigrati perché non ci riproduciamo? Ma andiamo prima a risolvere i problemi per i quali non ci riproduciamo, che nel tuo caso sarà che magari non ti tira, ma nel caso di tanti altri italiani sarà che c'è un governo che non ci dà un cazzo, che non ci dà supporto. Io sono dovuto emigrare, sono in Germania, c'ho tutto, mi sto riproducendo minchia come un coniglio, hai capito? No, prendiamo i negri dall'Africa, cazzo! Vai, vai, Biancalani! Vai, Parenzo, vai, riempiamo l'Italia di sta gente qua! Bravi ragazzi, vai così! Teste di minchia! David, ci sei? Ci mamma sei? Mia, mamma mia, ci mamma sei mia. O no? Mamma ci mia, mamma mia. Chi è che ricorda? Un ascoltatore che una volta interveniva e diceva mamma. Ah sì, Riccardo da Roma. Esatto, sì. Diceva sì, mamma. L'unica cosa bella che diceva mamma mia, mamma mia. Hai mamma sentito mia uno spaccato importante di questo paese? Ho sentito una fotografia uno importante. Di un gabinetto. No, sì, uno spaccato di un gabinetto. Di un Vespasiano. E che sarà mai? Comunque avevi in parte ragione te, in parte. Cioè sembra sulla fake news, dici, la fake di news, sì, è la fake news di Padova, ma io sì mi vergogno, ma fossi in quelli che hanno scritto sta roba mi vergognerei come non so come, chiederei scusa, no, in però ginocchio dovrebbero proprio. No, io dico quelli che politicamente cavalcano questa cosa, noi ieri abbiamo avuto sempre abbiamo sempre detto che forse non era vera eccetera eccetera, ma poi tu un po' ammiccabili, sì, perché eri pronto a inzuppare, a farti una bella fetta, naturalmente, di spalmare una bella fetta di pane con della bella marmellata antimigrante, naturalmente, eri pronto no, a farti una scorpacciata di notizie antislamiche, eri pronto. E invece stop, fermati quei politici, credo Salvini, che subito hanno cavalcato quella notizia, subito dovrebbero chiedere scusa, immediatamente chiedere scusa subito. Naturalmente. Allora ragazzi, ricordate, io sono fissato con questo signore, con questo Cateno De Luca. Cateno De Luca, quello che viene difeso da Taormina e che è un politico del non so di che partito, del partito suo in realtà, a Messina, dice che si candiderà a sindaco e che andrà in trasmissione da Giletti domenica. Sì, lo incontrerò, dove... posso annunciarlo, lo incontrerò domenica. Nessuno, sì, Cateno De Luca, Cateno De Luca annuncia la sua partecipazione al programma di Giletti domenica in questo modo. Sta diventando anche questa cosa qui, la sua scarcerazione sta diventando un grande showbiz, no? Vai. Pronto? Sì, sono io, Cateno De Luca. Con chi parlo, scusi? Ah, è la redazione della 7? Mi dica, sta telefonando per conto del dottore Massimo Giletti? No, mi state invitando per domenica, ma ora domenica 26 novembre, alle ore 20:30, alla trasmissione Non è l'arena? Ma veramente, grazie. E ora vedo di organizzarmi, ovviamente se sono ancora a piede libero. Grazie. Ma ovviamente questa telefonata è finta, è una buffonata, no? Cioè sì, non è che può aver parlato così. Cioè, voi vi rendete conto che questo signore che è stato appena scarcerato è già nel pieno dell'attività teatrale della politica italiana? Se io fossi dell'ottimo Giletti userei questo come promo del programma, perché dove lo trovi un altro politico così straordinario? Veramente incredibile. Cateno De Luca. Sarà una bella battaglia. Vi sottopongo. C'è anche il professor Taormina, mi hanno detto. Beh, stupendo, in studio. Stupendo. Certo, una persona per bene, specchiata De Luca. Allora, vi sottopongo una opinione del signor Gino Strada. Lo so che a molti di voi già quando io dico Gino Strada a molti di voi non dico che prudono le mani, però la parola Gino Strada dà un fastidio fisico a molti di voi che ascoltano, ad altri no magari. Il governo ha fatto un atto di guerra contro i migranti. Io credo che il governo italiano e la politica italiana abbia fatto un errore enorme. Quello che è successo di fatto sia un atto di guerra contro i migranti e lo trovo criminoso. Non c'è stato nessun atto di guerra. Il governo a un certo punto per bloccare l'immigrazione ha fatto degli accordi. Certo, poi ce ne fottiamo di quello che accade in Libia, non c'è dubbio. Ecco, questo è il punto, ha ragione su questo nel merito. Sì, cerchiamo di dare un occhio, per carità, ma possiamo dirla tutta? Possiamo dirla tutta a noi qui, ma anche a te che fai il bonista e giri tra Pescara, Roma, Siena, Cene, Napoli. Napoli ad esempio, da un sarto stamattina. Sei andato a Napoli. Adesso è inutile. A te della sorte. Sì, era Napoli con il signor Benincasa da un sarto. Benissimo, ma che lo sarto? Ma cos'è la camorra, il sarto? Andato Parenzo, vado al sarto a Napoli. Possiamo dire da un sarto a Napoli. Benissimo. Per far fare un vestito su misura, ma naturalmente. E cosa vai a fare dal sarto? Cosa vai a fare? Vai a pulirti il sedere, no? Andrai a farti fare un vestito dal sarto. Dai. Se vai in gabinetto, vai in gabinetto. Quando uno va dal sarto, si fa fare il vestito. Sceglie le stoffe con Benincasa. Sì, con Giovanni Benincasa, uno sceglie le stoffe. Così adesso. No, come sputtanare? È il suo sarto, me l'ha presentato lui. Ragazzi, scegli le stoffe, vedi, dici scusi la consistenza. In questi due minuti, nemmeno due minuti. Un bel Four Seasons. Avete capito tutto di com'è Parenzo. Va dal sarto a Napoli a farsi fare i vestiti su misura. Ma non è una cosa. Questa è la gauche caviar. Questa è la sinistra intellettuale. Sai cosa ha fatto? Lo hanno trovato affiliato a Cosa Nostra. Massacratelo. Perché non vai dal sarto? La realtà sarto, è tu. Che te ne fotti. Vai in Libia a scoprire cosa succede ai migranti in Libia. Non mi risulta. Tu che sei dalla parte di Gino Strada. Mi risulta che i sarti migliori stiano tra Milano e Napoli. Vai in Libia. Ma cosa c'entra la Libia con i sarti? No, va dai sarti a Napoli a farsi fare i vestiti. Ma sono le migliori riconosciute in tutto il mondo. Vai in Libia nudo. Io aiuto il sud in questo modo. Vergognati. Le migliori sartorie sono partenopee, come tu ben sai. Fai le inchieste in Libia per capire come si trattano i migranti, dato che e la realtà è che a te, come ad altri, a me pure, devo dire la verità, di quello che succede in Libia ai migranti. No, invece uno è importantissimo. Deve essere anche chiaro, a me non mi frega ma un cazzo. Ti sbagli, devo dire molto la verità. Ti sbagli, non mi cambia la giornata. Ma ti sbagli. A me non mi frega perché una mazza. Influenza anche la tua vita. Non me la frega a me di quello che accade al migrante in Libia. Devo dirla tutta perché è così, la realtà è questa. Fai molto a male. A me del migrante come viene trattato in Libia non mi frega una straminchia di niente. Ma è terribile quello che stai dicendo. Ma è così, terribile. Che ti devo fare? È terribile. No, è la io ho altri pensieri per la testa. Non posso ma io. Tu hai soltanto la figa per la testa. Questo no. È il punto vero. Perché tu pensi solo a quella cosa lì. Sempre e solo. 24 ore al giorno. Ma no, è una malattia. No, questo non è vero. Sì, è questo la non credo. Solo a quello. Adesso c'è questa buca a Roma che hanno trovato. E tu subito hai detto, ma chissà che buco sarà. Ma probabilmente è una buca di una strada. Hanno c'è un buco clamoroso in tutte le agenzie. No? E tu appena lo vedi pensi a quell'altra roba lì. Già, perché tutto il tuo mondo gira tutto intorno alla, no, a quella cosa alla lì. Figa, tutto, l'hai detto, tutto. No, voglio, mi è scappato prima, e chiedo scusa. Detto. Mi è scappato e chiedo veramente figa, scusa. Adesso non si può nemmeno dire figa. No, non si può nemmeno dire figa. È inelegante, siete pazzi? Chiedo scusa. Siete è inelegante. Pazzi, è inelegante. Allora, è inelegante. Molta gente mi sta scrivendo. A me non frega un cazzo del. Del migrante in Libia. La questione è prendere atto ma della non è realtà. Buonismo, non c'entra niente. No, devi realtà. Prendere atto di come sei fatto. Ma se non tu ce hai ne altri pensieri, di quello che avviene nel mondo, vai ma non dal Sarto è vero. A Napoli. Ma cosa c'entra una cosa altri non pensieri. Esclude l'altra? Ma cosa? Ma che se uno va dal Sarto non a Napoli te ne frega niente, non può occuparsi anche di fatemi cose sentire. Internazionali? No, non ho capito. Fatemi sentire, Gino. No, non essere ipocrita. I tuoi può. Pensieri quotidiani non sono al migrante in Libia, sono al Sarto a Napoli. I quotidiani. I tuoi pensieri quotidiani non sono penso che uno sviluppo più sostenibile renda migliore. Migliore anche l'Italia e l'Europa. Senti, tutto qua. Quindi la vita di tutti noi Gino è molto strada, semplice. Gino strada ancora. Non si può tacere il fatto che mentre aspettiamo che succeda c'è gente che muore. C'è gente che muore proprio per questa politica. Ma il problema non sono gli scafisti. Cioè non si può trattare la cosa come se queste persone fossero dei contrabbandieri di sigarette. Avete sentito bene? Il problema non sono gli scafisti. Beh, certo. Non sono gli scafisti. Poi sono anche gli scafisti, ma soprattutto gli accordi fatti con un governo dove il governo libico paga gli scafisti per fare ste minchiate. Questo è il punto. Guarda, però. Posso dirti la verità? A me interessa che non arrivino più i barconi in Italia. Del resto non mi frega un cazzo. Non cioè, possono altri. Morire. Non questo no, si diceva morire, però anche so. Nella seconda guerra mondiale. Stesso, muoiono nella lo seconda stesso. Guerra mondiale si diceva non ci interessa che sono le camere a gas. A me interessa che non siano più gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari. C'era gente che se ne vabbè. Fregava come te. Antonio Gramsci li chiamava gli indifferenti. Antonio Gramsci diceva odio Gramsci. Gli indifferenti. Siamo arrivati a Gramsci. Antonio Gramsci alle 18:45. Odio gli indifferenti. Certo, vabbè. Ma è sempre attuale. Non è che allora, alle 18:45 non si può citare qualche... Antonio Gramsci. Odio gli indifferenti. Va bene, d'accordo. Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, fece l'appello agli studenti. Calmati, non frugate, calmati, no, a memoria calmati, lo so. Calmati, a memoria calmati. L'appello di Concetto Marchesi che diceva non frugate nelle memorie, nei nascondigli del passato, i soli responsabili di bisogni rituosi. Onde che chiudete, cornuti? La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Hai capito? Siamo qui in via Monterosa al 91 alla sede della Pricewaterhouse per un convegno con Enrico Letta e tanta altra bella gente, ma la cosa fondamentale è che finalmente posso calcare le orme del mio maestro Cruciani. E pisciare nei cessi della Pricewaterhouse. No, vorrei correggere questo ascoltatore. Io non mi limito a orinare nei cessi della Pricewaterhouse. Anzi, quando devo orinare vado anche nei cessi del Sole 24 Ore. Io vado nei cessi della Pricewaterhouse. Questo per correzione, giusto per la cronaca, Davide, no? Quando devo defecare. Quando ma devo non defecare. Ma non c'hai una casa. Sì, ho capito. Ma non hai una casa. Mi scapperà di cagare anche quando sono qui al lavoro. Non ma è che per forza. Ma ho capito. Ma perché devi andare nei bagni dove lavorano altre persone per bene, peraltro? Perché sono più puliti, l'ho detto più volte. Dunque si caga meglio. Dunque vado lì, cago, pulisco con lo spazzolino. Ah, scusa, a parte che questo tu pulisci argomento, con lo spazzolino. Questa conversazione no. A quest'ora. Ma tu pulisci. Questo è interessante. Tu pulisci con lo spazzolino nei bagni pubblici o no? Ti fa schifo. Ma per esempio, no, c'è una corrente di pensiero che dice chi ha toccato. No, chi ha toccato con le mani lo spazzolino, quello per pulire i cessi. Tu quando vai in un... ti capiterà di cagare in un bagno pubblico? Molto, no? Molto raramente. Vabbè, quando ti capita, molto pulisci raramente. O no? O lasci così? O molto lasci raramente. La zozzeria, intanto, le strisciate sul bianco? Tanto io ho una capacità, diciamo, di centrare. Adesso questo no. Sì, dai. Calcolo per educazione. Ho ma mi capita molto raramente di usufruire di bagni pubblici. Vai, su. Davvero, mi capita molto raramente perché io in devo genere... dire la verità, io non me lascio mai tracce quando vado nei bagni pubblici o quando vado per esempio qui al lavoro o da altre parti, cioè, e mi fa, non dico no, schifo non mi fa, però certo prendo quella come si chiedo chiama, scusa, ma che conversazione no, è questa qui però? Lo spazzolone, che lo spazzolone che naturalmente è stato toccato da molte persone, però vabbè, dico, sta lì lo spazzolone, pulisco quanto più possibile, pulisco. Ma è una cosa normale, cioè, ma ci mancherebbe altro. Molta gente dire, secondo ma... me invece lascia tutto nei bagni pubblici, lascia tutto nei ma bagni sì, quelli che non telefonano sono quelli che telefonano no, alla no, zanzara no, no. Certo, quella comunque, centaglia ragazzi, là voglio dirvi come è nata, voglio raccontarvi come è nata la storia della bimba data e sposa al 35enne. In realtà il Gazzettino è una balla. Aspetta, diciamo subito che è una quotidiano balla. Il Gazzettino scrive pochi istanti fa: la notizia non è frutto di una nostra fantasia, ci è stata data da una fonte ufficiale qualificata e informata sui fatti nel contesto della presentazione di una nuova sala protetta e dall'arma dei carabinieri. La stessa fonte ci ha fornito anche dettagli che non sono stati riportati nell'articolo, tali da rendere evidente la conferma di una conoscenza precisa dei fatti. Non abbiamo quindi motivo di dubitare della credibilità delle fonti in questione. Tuttavia, se abbiamo scritto qualcosa di inesatto, ce ne scusiamo con i nostri. Questo sembra di sì. Diciamo. Si sono fidati di una fonte. Vabbè, capita, di una fonte. E hanno dato la notizia per certo. Non dicono che è totalmente falsa, eh. Cioè, non è che dicono che è stato accertato che è falsa. Vedremo come andrà a finire questa storia. Vedremo. Allora, il musulmano che ha minacciato di morte il nostro Donato da Varese, il nostro, cioè uno dei. Degli ascoltatori più conosciuti di questa. Io direi uno dei mostri, ecco. Uno dei mostri per questa, eccetera, trasmissione. Sì. E ha mandato un paio di messaggi. Forse alcuni li avete sentiti anche all'inizio della trasmissione. Comunque, i due messaggi integrali sono questi: Donato De Varese, sei soltanto un povero animaletto di merda che sei pieno di debiti della tua ex moglie che ti ha lasciato col primo che è capitato musulmano per strada. Pezzo di merda, Donato Monnizza, vaffanculo, attira la tua vittoria che lo vuoi fare, coglioni, scemo. Avanti con l'altro. Ma stai tranquillo, pezzo di merda, che ti garantisco io la tua morte fra un paio di giorni, pezzo di merda. Te lo uccido io con le mie mani, pezzo di merda, capito? Allora, questo signore apparentemente muslim, molto incazzato per le teorie di Donato sull'invasione dell'Italia, sull'invasione islamica, per le parole di Donato spesso molto forti nei confronti dei signori islamici, no? E dell'Islam, caro David, potrebbe essere un fake? Cosa dici? Beh, verifichiamo, vai. Va, chissà. Pronto? Chi è? Sei vero o finto? Cosa vuol dire vero o finto? Sono Cruciani, hai minacciato di morte una persona. Fatana affanculo a te quel pezzo di merda. Oh, ma chi sei? Tu e quel... che cazzo si chiama quel pezzo di merda, Donato? Madonna, ma avete rotto il cazzo veramente, guarda. Lei è minacciato di morte. Pare vero, pare vero, pare vero. Allora, partiamo con qualche sticazzi, poi cominciano le telefonate. Innanzitutto Dacia Maraini contro la barba degli uomini. E sticazzi! Non si capisce perché Dacia Maraini contro la barba degli uomini. Sì, perché, questo è un po' strano. Perché dice che no, si ritorna all'uomo di una volta, all'uomo... Bah. Scalfari dice che piuttosto che Di Maio, Scalfari, Repubblica... Piuttosto che Di Maio voterebbe Berlusconi. Vai, sentiamo. Lei, se dovesse scegliere tra Di Maio e Berlusconi, affidare il paese a uno dei due, quale sceglierebbe? Sceglierei Berlusconi. E sti cazzi! Beh, qui in realtà sti cazzi sì e no, perché effettivamente tutti contro i 5 Stelle, perché per questo a me alla fine mi stanno simpatici, perché sono tutti contro i 5 Stelle. Ma non è vero. Cioè, tutti contro i 5 Stelle. Anche Fuxas, anche l'architetto Fuxas, tra Di Maio e Berlusconi sceglierebbe Berlusconi, adesso perché Fuxas si è fatto curare recentemente nelle cliniche di Berlusconi, adesso Berlusconi è diventato il numero uno secondo lui. Tra Di Maio e Berlusconi niente. No, diciamo sempre più Berlusconi, è vero, però è troppo facile. Lazar da Brescia, vai Lazar. Era una fake news, Cruciani, ieri, hai visto? No, Lazar, parla bene, ma non cominciamo così, parla, fammi capire bene, Lazar, dimmi. Sì. No, il fatto di Padova era un fake news ieri, visto? Tu hai strappato i vesti, eri stato arrabbiato. Abbiamo sempre avuto dubbi, caro Lazar, su questa Scusami, cosa. Scusami, annuncio clamoroso. Mi sta scrivendo un amico in diretta, Roy Braca, voglio dire il nome. Sì. Dice: non ci posso credere, ti sto ascoltando in volo per Milano. L'Elal, che è la compagnia aerea israeliana, ha messo il wifi e qui gli italiani ascoltano la Zanzara, cioè in volo da Tel Aviv a Milano. C'è il wifi negli aerei israeliani, segno di grande. Io direi di chiudere qui. Grande civiltà di Israele. E sti Ma come sarebbe? Lazar, che vuoi? Anche Lazar, fare? Sì, giusto, sti cazzi. Come abbiamo sentito ieri, il mercato di turno e la compagnia della Lega che hanno veramente fatto l'ilk del caso. Perché non chiudere scusa adesso? Perché tu non chiami qualcuno di sempre di loro e costringerli a chiedere scusa? Ma non lo so, ma chiedila loro, perché cazzo vuoi da me, Lazar? Non ho capito. Ma anche tu ieri, ti ho sentito ieri parlare dopo la chiamata di Mohamed, l'hai detto così proprio, non mi convincerete mai. Cosa vuol dire? Sto dicendo che a parte abbiamo sempre avuto dubbi su questa notizia, abbiamo sempre avuto dubbi sin dall'inizio. Cruciani. Però su questo caso parlo anche con Parenzo, che io ce l'ho la fiducia più di che te. Parenzo deve chiarire tantissime cose, però non deve stare così in silenzio, porca miseria. Parenzo, Lazar, a parte che a me non me ne fa il caso c'è di gente ieri che di vola cosa? A Dubai, ascolta la Zanzara da Dubai, una roba pazzesca veramente, ha mancato tutto. E sti cazzi! Ma come vi permettete? Fermi tutti. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. E mi disse: ma guarda che questo c'ha il cazzo più ciucciato d'Italia. Non mi ha stuprata. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024. Oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701. Mi fai parlare, porca puttana! Vuoi farmi parlare? Oh, senti, il camion. Come fa, Edrombe, come fa? Amarezzo! Non ci hai rotto il cazzo! Ma una bella botta gli hai data, Hai capito? No, io stavo semplicemente dicendo che non capisco perché Giuseppe sbrocca e si lamenta dell'audio degli ascoltatori. In realtà noi sentiamo benissimo, cioè sentiamo tutto, è solo lui che non sente. Cioè tu sei un grande ascoltatore della Zanzara? Sì, io ascolto tutti i giorni la Zanzara. E quando Giuseppe si incazza che non si sente l'ascoltatore? Si sente benissimo, ma anche quando David tossisce? Oh, perfetto. Andate a fare in culo, ecco, anche andate. Questo l'abbiamo finalmente sfatato, questo mito, no? Ma non è vero, senti, ma non sentono è vero. Tutti tranne te, ci sarà un problema, no? Vai, adesso, che vuoi accusare. Chi chiama. Allora, ho appena ricevuto delle fotografie di David Parenzo. Ecco, ma è dell'azione, si di chiama. David Parenzo dell'azione, dal si chiama. Sarto a Napoli. Sì, ma un non è sarto, un sarto, ricordiamolo. È così, tanto per dare cosa la fotografia della definitiva della gauche caviar. Ma cosa vuol dire la gauche caviar? Ma non vuol dire chi niente. Era questo sarto? Chi è questo sarto? Questo chi è uno sarto storico del dottor Giovanni Benincasa. No, ma lascia perdere Benincasa. Chi è che ha servito questo sarto? Totò addirittura. Beh, Totò. Diciamo, lui è alunno del grande grande, del grande sì. Attolini, che è stato sì. uno dei Va più bene. Grandi Dunque... sarti al mondo, che ha vestito Totò, De Sica, l'avvocato Agnelli, sì. cioè è un nome celeberrimo nel mondo, diciamo così, non sì, dell'alta ma chi ha servito? Moda. Quale, ti quale... ho detto Totò, poi? Il maestro Totò si serviva solo poi? Da lui, ad esempio. Poi De Sica quanto padre. Costa farsi fare un vestito lì? Adesso questo non lo so, non abbiamo parlato, non parlo di soldi, perché è una cosa anche volgare quando dici scusa quanto costa, perché beh, devi sì, dare certo. Ah, tu no, fai fare al vediamo, sarto e poi verifichiamo, non è che chiedi perché devi essere siamo così villano. Mille di base non gli dici neanche buongiorno, credo. Però no, voglio dire €1000 no. non dici nemmeno buongiorno. Ma non lo so, al sarto. Ma non ti saluta neanche adesso, non ne ho idea. Ma non ho idea perché non parlo di denaro. Cioè, parla di è denaro, il villano. È sei villano. Cioè, parli paga, di denaro. Paga. Io non parlo di denaro, ma non lo so. Paga quanto, più di €1000 per costa. Un abito, per un ma abito. Quanto costa? E poi quanto si costa? Rammarica, ma che si rammarica dei migranti. Vuol dire? Ma non vuol dire niente. Comunque, il fatto sta che posso insegnarti una cosa a te, a quelli che chiamano, perché quelli che ascoltano sono allora, molto ben educati. Non si parla di denaro, è una delle prime cose buone che mi hanno insegnato. Parlare di denaro, non si parla di denaro, è una cosa volgare proprio. Denaro, quanto costa? Se va al ristorante dice scusi quanto costa questa pappa, quanto costa? Costerà quello che deve costare, no? Quanto costa? Cosa insegni tu ai tuoi figli? Allora mi compri quello, quanto costa? Quello che serve si compra, dai, su. Allora questa la questa, qualcuno mi segnala €4000 come minimo. €4000 no, questo sarto. 4000. Ma poi certo, sì. magari perché sei Parenzo ti farà lo sconto. Ma no, 4000 ma non so. Euro per ma un non abito so, e protesta non... per i migranti in Libia. Ma cosa c'entra? Si rammarica, c'entra è rammaricato, niente. È contrito. Comunque, per i migranti in Libia, odio, se c'è niente di particolare, no, sai. Ti scateno contro una canizza su questa cosa che non hai idea. Ti scateno contro una canizza che non hai idea. Se avessi incontrato il capo della Camorra, ho ricevuto anche foto, tue che pranzi con un bicchiere davanti a Posillipo, no, con un bicchiere ecco, di vino, con un con a Posillipo, con un grande sì. panorama, dopo esserti provato l'abito, tutto questo pacchetto è costato 500-600 euro di viaggio. Non più. Lo so, sì, adesso non mi ricordo. Comunque si chiama la trattoria, si chiama Cicciotto, se vuoi amare chiaro. Quanto avete Napoli, pagato? Quanto avete pagato? Ma non mi ricordo quanto avete pagato. Ma perché tutto deve essere ridotto a denaro? C'era il cielo, certo, c'era un'atmosfera, c'era il dottor Benincasa, abbiamo ragionato, Aridaie, abbiamo parlato di politica, Aridaie. Abbiamo parlato di trasmissioni, abbiamo ragionato. Ci siamo anche un po' abbiamo aperti la mente, no? Ci siamo aperti la mente, non è che allora quanto costa? Ciro. Ciro. Ciro però è il nome della trattoria in questo caso. Ma Ciccio novità da Napoli nessuno, non hai non sento da Napoli nessuno. Incontrare la solita persona, quella l'hai lasciata ormai, no? La amante quella di un tempo. Chiama. No, l'amante quella di un sei, tempo l'hai lasciata. Comunque sei una persona brutta, raramente nella mia allora, vita ho incontrato persone così brutte. Una frase raramente. Una frase della E Giovanni Benincasa è un infame in tutto questo, perché una frase una frase dell'invettiva di Silvana De Mari, della professoressa Silvana De Mari, l'altro giorno sull'altare sì. della chiesa del Santo Sepolcro di Bagheria. Benissimo. Chi vuol cambiare sesso deve farlo con i soldi suoi. Queste cose sono carissime, non si può cambiare sesso perché io ho più cromosomi in comune con uno scimpanzé femmina che con un uomo maschio. Quindi castrano uno, gli mettono due tette sottocute che non sono mammelle perché le mie sono mammelle e quelle sono protesi. Poi tagli tutto e fai una specie di buco che non è la vagina, perché la vagina è un organo unico, straordinario. Chi non ce l'ha, non ce l'ha. Quindi si fa una specie di buco ricoperto con la pelle dello scroto, che mamma è sempre infiammata ed è sempre sporca perché non ha la potenza mamma della vagina. Mia, perché ragazzi. Dovrebbe essere sempre sporca la vagina? Bisognerebbe chiedere a qualcuno che si è operato se le teorie della professoressa De Mari sono vere. Mamma, ma che persona cioè, secondo la De Mari, La vagina di un trans è più sporca della vagina normale. Ma che persona perché? Orribile è questa De Mari. Aspetta ancora. Alle femmine come fai? Gli tagli via le mammelle e questo era facile. Gli tagli via le ovaie. Poi ricostruisci con la pelle una specie di tubo. Dentro ci metti corpi cavernosi. No, non ce li hai. Quindi metti due robe che con un'iniezione potrebbero dare un'erezione. Dentro questo tubo di pelle c'è un tubo che porta fuori la pipì. Quello non è l'uretra, perché l'uretra se ce l'hai ce l'hai, se non ce l'hai non ce l'hai. Quindi in questo tubicino la pipì scola, ma non ha la forza, ma resta sempre un po' di pipì che diventa cistite. Io non voglio finanziare delle malattie. Volete cercarvi delle malattie? Fatelo, ma con i soldi vostri. Ce le dice in sostanza che una trans non può essere trans, cioè non ti devi operare a spese nostre, perché tutto questo porta a malattie. Le teorie della professoressa De Mari. Marco da Milano, vai Marco. Sì, ciao Beppe, buonasera. Dimmi, senti, volevo parlare con lo pseudo dottore simile italiano, sì, lì al tuo fianco. Ecco, beh, è italiano. Buonasera, italiano, intanto. Sì, buonasera. E benvenuto alla Zanzara, grazie per aver chiamato. Grazie. Volevo dica. Dire che si deve preparare alla, sì, Alia, che lui sa cosa alla, scusi? Alia, lui sa cos'è. No, ma sì, allora, intanto in ebraico, anche, intanto in ebraico, no, è pronunciato malissimo. Si, vabbè, dice, non sono ebreo io, quindi no, non ho capito, ma se lei, come in inglese, se lei dice thank you, non è una Alia. Sì. Si dice no, Alia, non è una Alia trasmissione per iniziati, no, ma Marco, siccome questo imbecille, vabbè, siccome questo imbecille usa una parola ebraica senza saperla, sì, io non sono imbecille, Marco, sono totalmente come te, quindi vuoi parlare, no, per favore, allora deve, no, studiare dirvi, un po' di più. Si deve preparare a quello, perché oggi leggevo un interessante articolo, sì, che nella grande Parigi multiculturale, sì, stanno scappando, sì, stanno scappando, perché lo si so, stanno lo un so, po' accerchiando, perseguitando, non è molto bello, sì, è per vero, loro. Ma non ho capito, sei quasi contento, Marco, non ho capito. Ah, io non è che sono contento, siccome lui è felice che i suoi fratelli muslimi arrivino qua in massa, si dovrà preparare, altrimenti prenderanno il suo zinna e lo faranno a fettine. Allora, il quindi, come lei già Marco sa, sta dicendo che tu devi, Marco devi sta temere, dicendo, devi temere l'arrivo dei musulmani. Marco sta dicendo una cosa vera e una fregnaccia. La cosa vera, no, è che l'antisemitismo in Francia entrambe, è preoccupante, e gli ebrei dalla Francia stanno scappando per, certo, andare in Israele a fare la Alia. Bene. Va bene, Gaspare da Bergamo, Gaspare da Bergamo. Pronto? Dimmi. Sì, eccomi. Intanto volevo dire, esprimere tutta la mia solidarietà a Parenzo, perché con tutti questi acefali che lo attaccano, non c'è, è problema, veramente, grazie, dura fare quel mestiere. Poi uno, grazie, è libero di vestirsi come vuole, e ti credo, o di andare in giro come te con un solo paio di pantaloni. No, veramente, io ce n'ho un sacco. Io ho un sacco di paio, no, di pantaloni. No, uno, un paio, ma solo, e anche sporchi per giunta. Un paio di pantaloni sono sporcati, e hai chiesto alla signora di stirarli. Ma quello che c'è, perché finire, no, per favore. Ma allora, Gaspare, che sei cretino. Ah no, non solo, e ha usato, bravo, e ha usato una funzionaria del Parlamento Europeo, ma perché c'è di più, ma voi c'è siete peculato, malati, c'è un aggravante, ha usato la signora dottoressa Conte, funzionaria del Parlamento Europeo, per farsi attaccare i bottoni sulla patta, ma avevo solo quel paio di visto? Una vergogna, una siete porcheria, Lorenzo, una peculato, peculato, fermo, è un reato, no, peculato, aspetta Gaspare, sì, è un attimo, allora, non ci rompere i coglioni, un attimo che ti richiamiamo, fermo che c'è la pubblicità, fermo, abbiamo un sacco di interruzioni in questo programma, vai. Vattene Satana, vattene Asmodeo. Asmodeo, venti di Parenzo. A me ne piace Ustigio. Sei Asmodeo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. La Zanzara. David! Ascolta, che tu ti sei allontanato. A me non me ne frega un cazzo. Hai capito? Denunciami. Gremlis. Te li ricordi Gremlis? Hey! A Lorenzo, so già 5 anni che sulla Norwegian Airline ci sta il wifi, ascolto la Zanzara quando mi capita, quindi non ti eccitare troppo come stai a fare adesso. Messaggio per David Coglione Parenzo: il wifi su Fly Emirates c'è già un bel po', coglione. Andiamo avanti. Allora, caro David, come sai forse, l'altro giorno Di Battista su Facebook ha annunciato che non si ricandida. Di Battista è uno dei dirigenti dei 5 Stelle. Non ho dormito la notte. Sì, dopo però devo dirti la verità. Bravo, invece, sì, molto bravo. Invece di dire bravo, invece di dire insomma una cosa diversa rispetto agli altri politici, no, che, non bravo, vedono l'ora, che non vedono sì, l'ora, certo, di avere un'altra poltrona, un altro mandato. A me non è piaciuto molto quando ha detto no, lo faccio perché devo stare con mio figlio. Bello, ma, bellissimo, ma quello invece. Ma che con tuo figlio? Siamo nel 2017. Vuole scrivere libri? Ci sono le donne figlio di servizio, ci sono le badanti, ci sono le babysitter, ma che cazzo ci frega? A me questo mammismo degli uomini mi fa schifo, devo dirti la verità, mi fa orrore. Un'ora avrai indietro dai figli quel che ha seminato. Ma che cazzo c'entra? Non quindi dire stronzate. Se uno fa crescere i figli delle donne di servizio, mi fai venire la saliva alla bocca con queste cose qua. Mi fa veramente orrore questa cosa qua. Ognuno, i nostri padri, i figli, se ne sbattevano ma i coglioni. I miei, sì, no? Mio padre se ne sbatteva i coglioni. Detto, benissimo, avrei affetto comunque. Il mio no, c'è stato sempre presentissimo. Allora, ci sentiamo due volte al giorno. Alcuni, rispetto a questa cosa di Battista, alcuni dicono è una finta, no, altri no dicono vuole fare il sindaco di Roma. Ecco, quello potrebbe anche ma vuole no, fare. Quello potrebbe anche essere che poi lo candidino a sindaco di Roma. Ma quella caso ancora la signora tre anni, no, ma ha tre anni la Raggi. Ho capito, c'è un'inchiesta in corso. Va però bene, ho capito, ma avrà c'è un'inchiesta tre anni giudiziaria in corso. Vabbè, qualora la dovessero condannare, allora, si andrà al voto di prima. Dire, invece di dire bravo, ha fatto un solo mandato, rinuncia alla poltrona per un periodo, sì, ma infatti, non so per quanto. Per me questo è giusto, gli bravo dicono no, la dietrologia, forse vuole fare ministro, sindaco di Roma. Ma no, vabbè, ma dai, su. Se lui ha detto che non si candida, non guarda, si candida. Guarda, io posso non essere d'accordo su diverse cose con Di Battista, ma questa cosa qui ha fatto benissimo, è un grande per questa cosa qua. Sì, certo, uno che potrebbe tranquillamente stare altri 5 anni in Parlamento, invece ha detto no. Sì, però non è neanche disdicevole chi vuole rimanere in Parlamento, cioè non è che no, lui ha fatto benissimo, ha fatto un'ottima scelta questo? E se no, perché se no il messaggio che passa è ah, guarda quanto è bravo lui che ha rinunciato, no, alla poltrona. Però rinunciare non è una male poltrona, rinunciare, ti devono votare, ti beh, devono insomma, votare, oddio, i cittadini. Non è proprio così. Devi presentarti non alle elezioni, devi rappresentare non qualcosa. Non beh, è proprio sì, così. Devi rappresentare qualcosa. E non è disdicevole stare nelle istituzioni se ci stai con le mani pulite. Non è disdicevole. Gaspare arrivo, Gaspare arrivo. Chi è? Gaspare Mutolo. No, Gaspare Mutolo che c'entra, quello pentito so di mafia, è, no? Non lo so chi è, chi chiama mai. Aspetta, qui, non lo so io. Chiamano nazisti di tutto. Dai, coniglio. Dai, coniglione. Gaspare, vai. Gaspare. Pronto? Allora, vai. Sì, vai, Gaspare, dimmi. Allora, volevo dire una cosa molto semplice. Allora, sì, io ammiro Emergency Gino Strada vabbè, da almeno 22 anni. Beh, contrariamente chi? A quello che dicevi tu nell'intro della trasmissione. No, guarda, Gaspare, tu puoi ammirare, solo, no, puoi ammirare chi parlare, ti pare, scusa, puoi ammirare chi vuoi, ma sì, qual è il ma punto? Tu hai detto che sono in bocca ad ammirare. Posso no, dirti non perché? Ho detto questo. Comunque, vai. Ma però non posso, posso non ho detto questo, ho detto io stavo posso criticando una io frase di Gino Strada. Stavo criticando una frase solo di Gino Strada. L'altra volta ha detto, parliamo una alla volta. Vai, vai. Gino Strada l'altra volta ha detto una cazzata che tu hai rimarcato bene nella tua trasmissione e io ero d'accordo. Esatto. Ma adesso chiedo a te e a tutti quelli che ce l'hanno con Gino Strada, chi, quale medico lascia come dire, le comodità della Brianza e comincia a fare ospedali di campo in tutto il mondo. Vabbè, ma non è questo il punto. Ma può dire anche cazzate. Oh, Gaspare, però io ho detto che quando parla di governo criminale sui migranti dice una balla, una cazzata, almeno secondo me. Secondo lui invece il governo è criminale perché non accogliamo tutti. Dai, su, ragazzi, di che parliamo? Ci stavo arrivando. Allora? Ha detto che ha fatto anche delle cazzate, però è innegabile che questo governo ha fatto un accordo con la Libia per scaricarsi problemi e coscienza. E non gliene fotte un cazzo di come vengono trattati lì, se bravo sono prigionieri oppure no. Bravo. E a Parenzo, che io ho fatto anche, come dire, una cosa carina stasera nell'intro, che io sono Gaspare D'Angelo. Gaspare Montolo sarà un suo amico. Cecilia, non mi ricordavo chi era Francesco il telefono. Francesco della provincia di Cosenza. Ha detto dai delle cose molto di buon senso. Francesco, provincia grazie di Cosenza, dai. Francesco, io veramente veramente sono molto depresso, perché sì, sei depresso, pazienza. Lei Parenzo, sono 2 anni che rompe i coglioni minacciando la gente di denunce. Dipende cosa uno dice. Tra l'altro lei non ha nemmeno il coraggio di dire per cosa li denuncia. No, lei dico sempre l'ipotesi di reato, ipotizzo sempre il reato io. Lei in 2 anni non ha avuto il coraggio di dire alla gente che li denuncia per la legge dell'istigazione all'odio razziale. Esatto, questo certo. Per la certo. legge della Shoah. Lo ripeto non spesso. L'ho avuto mai. Vabbè, Francesco, cosa vuoi? La domanda è cosa vuoi? Senti, sto parlando. No, e chi se ne frega? Non me ne frega nulla che stai parlando. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Ma no, ma non ha detto, ha detto sempre che denunciava per queste cose. Mentre uno parla. Ma io non faccio nessun mobbing. Mobbing a casa tua lo fanno, dai, forza Francesco. No, allora lei istiga all'odio razziale. Io istigo all'odio razziale. No, Parenzo, lei è un ottimo provocatore. In realtà sta dimostrando di essere uno schiavo dei sauromati. Questa è la realtà. Uno schiavo dei sauromati? Ma tu che sei? Quello dei sauromati, tu? I sauromati. Tu sei quello dei sauromati? Sauromati, quello che si fa pubblicità sui sauromati. Vabbè, questo è un malato di mente, dai. Cioè, è uno che vuole farsi pubblicità con questa cosa dei sauromati. Io ancora non ho capito chi sono questi sauromati. Mary da Prato, vai, Mary. Sì, buonasera, volevo Dimmi. Soltanto sapere la verità su quanto ha pagato il vestito dal famoso sarto di Napoli, il signor Parenzo. Non lo so, ma non è di interesse pubblico. Siccome lei, e ti devi vergognare. Si deve vergognare veramente, di aver fatto lei si deve... Lei è liberissimo di andare a comprarlo ecco. anche da Christian Dior, per l'amor di Dio. No, che però cattivo gusto. Allora, no, ma quelle sono cose. Bisogna fare le cose sartoriali, lavorando con le piccole botteghe. Le piccole botteghe artigiane. No, parli di denaro con me, volgarissimo. Non si parla di denaro, volgare. Non si parla di denaro, è volgare. Volgare. Lei è così una persona che ha tanta umanità, che ha No, non parli di denaro, è brutto. Rivolto ai rom, brutto. Agli extracomunitari. Brava Mary, vai addosso, attacca. Ma lei veramente deve avere il coraggio di dire quanto ha pagato quel cazzo di vestito alto, 1,50 m della merdaggine che ha addosso. Guardi, signora cara, buonasera. Non mi chiami signora cara perché sono cazzata con lei da cara nonnina allora, toscana, le voglio dire, vuole l'indirizzo per suo marito? Lei deve avere vuole l'indirizzo per suo marito? Vuole il nome per suo marito? Lei deve però dire la domanda ma è il coraggio di che cosa? Sono soldi miei, mica sono suoi. Ha ragione Mary, per una questione di trasparenza devi dire quanto pagherai quel vestito. Non lo so quanto lo pagherai, non ho chiesto perché non mi interessa. Vero, è molto volgare, è volgare come lei. Volgare, sì, non si parla denaro. Mai lei di denaro. Viene pagato al fine mese, le persone ci mancherebbe altro. Allora, e ci mancherebbe altro. Tutti i giorni a che fare con il Mary. Denaro. Ma sì, ma non si parla di denaro. Mary, amica mia, ma Mary, non si parla di denaro. Spiego perché, spiego il principio. Non si parla di denaro. Cioè, è ovvio che uno riceve uno stipendio. Se uno ce l'ha, non se ne parla, non c'è dubbio. Se uno ce l'ha, non ne parla. È ovvio, ma cosa c'entra? Ma questo non c'entra niente. In generale, non si parla di denaro. Anch'io non ne parlo, però. Esatto, ma uno non parla di denaro con i propri familiari, con i propri bambini. Non mi faccio un vestito da 4.000, non mi faccio un vestito da 4.000. Ma chi se ne frega da 4.000? Ma chi se ne frega da quanto è il vestito? Comunque io me lo posso... Lei ma certo, sono soldi suoi, no? Sono soldi del pubblico? Ma certo, ma può essere. Ma io non ho detto nulla, Cruciani. Ma io non ho mai detto che è di 4.000, è stato quel Cruciani che. Ma può essere 4, ma può essere 8, ma può essere 5, può essere 3, 2, 1000, 2000. Mamma mia, ma parla di denaro, è volgarissimo. Volgare. Mary, perché la domanda è questa, Mary, perché sei avvelenata da un mese? Lei è una donna volgare, parla di denaro. Tante di quelle stronzate. Ma signora, ma quanto guadagna lei, signora? Pochissimo, volgare. 1200 euro. Ma non lo dica, non pronunci il denaro. Ma no, ma tanti sono nella sua condizione, anch'io devo lavorare per tantissimi anni, ho tanti figli, certo, quindi non posso andare in pensione. Ma non mi posso permettere di andare a farmi un vestito e poi ma magari sì. Tanti, ma tante, che ne sa? Ma magari sì, ascolti, per suo marito. Però lui è molto contrito per gli immigrati in Libia, ma che c'entra contrito? Tiene molto a cuore la cosa. Ma le cose non sono in contrapposizione. No, certo, gli immigrati in Libia certo. è una anche perché se si risolve il problema in Libia non vengono a rompere le scatole a questa graziosa signora. È un pensiero quotidiano. Se stanno bene in Libia non vengono a rompere le scatole a questa graziosa signora. Ivan da Trapani che non capisce notoriamente un cazzo. Numero uno, Mary, a lei un bacio. Ivan da Trapani, vai. Crucia. Sì, dimmi. Hai chiesto scusa per la fake news di ieri, sì o no? Senti, amico mio, scusa, deve chiedere chi ha diffuso la fake news. Quelli del Gazzettino, ridicolo. I signori del Gazzettino dicono che ancora di avere avuto una fonte. Stavi con la bava la bocca. Ma non rompere i coglioni, se abbiamo detto che c'erano dei dubbi, cretino. Ma chi? Parenzo, imbecille. Ma capito, ma che Parenzo non fa parte di questa trasmissione? Che cazzo vuol dire? Ieri ci hanno creduto tutti a questa cosa qua. Noi sin dall'inizio avevo segnalato da subito l'infondatezza di quella cosa. Anch'io subito ho detto, se è vera questa cosa. Ecco, mi scrive Piccardo, Cruciani deve chiedere scusa per aver cavalcato una fake news. Piccardo vuole cosa? Vuole la poligamia, io devo chiedere scusa. Chiedi ma scusa, dai. Dice Piccardo. Ma chiedesse scusa per aver diffuso una fake news. Vabbè, ma io non chiedo scusa a nessuno. Ma che siete impazziti? Io sin dall'inizio ho detto che poteva essere finta questa cosa qua. Poi ho detto fosse vera. Ma ragazzi, comunque sarà falsa questa. Ma le spose bambine esistono? Sì, è vero, le spose bambine esistono nell'Islam, sì ma o in no? Alcuni paesi esistono, allora, esistono, l'Islam. Esistono, ma chiaro? Non nell'Islam. Fermi, non nell'Islam. Ciao Ivan, ciao, ciao. La zanzara. Allora ragazzi, chiamiamo un tizio, Parenzo, di Forza Nuova, quello che il responsabile della Toscana, si chiama Leonardo Cabras. Leonardo Cabras, perché è uno dei grandi nemici di Don Biancalani, il prete che vuole la legalizzazione della marijuana, che dice che in fondo non è tanto grave quello che ha commesso il nigeriano della sua comunità, che è stato pizzicato con alcune bustine di marijuana, che dice che bisogna accogliere a braccia aperte 120.000 migranti ogni anno, eccetera eccetera. Cabras, Forza Nuova. Sì, pronto. Cabras? Sì, chi parla? Sempre sul pezzo, Cruciani, come andiamo? Ah, Cruciani. Come andiamo, Cabras? Buonasera. Bene, ma avete bene. Fatto un altro striscione contro Biancalani? Pensavo che mi chiamavi per quell'altro striscione, quello su... Quale? Contro produttore il sindaco di Lucca. Che ha fatto il sindaco di Lucca? È sempre, diciamo, la cosiddetta cittadinanza onoraria degli immigrati. Noi abbiamo detto che è la solita pagliacciata, che eventualmente... l'unico cittadino onorario dovrebbe essere Mussolini, ecco, non fare queste pagliacciate, dovrebbe pensare ai propri connazionali senza lavoro. Cioè, non ho capito, l'unico cittadino Mussolini. Onorario dovrebbe essere Mussolini, secondo te, Di Luca? Beh, sicuramente sarebbe una cosa molto più seria che non fare queste giornate di propaganda dove strumentalizzano sempre di più l'immigrazione. Cioè, tu faresti, non so dove, a Luca, forse anche in tutte le città d'Italia, cittadino onorario Mussolini. Dico che sicuramente sarebbe una cosa molto più seria. Questi qui danno la cittadinanza onoraria, poi ammettendo che sarebbe una cosa propedeutica allo ius soli, e noi appunto diciamo che sì, sicuramente sarebbe molto più serio eventualmente darla la cittadinanza onoraria a qualcun altro. Ma non si può dare, ma si configura un reato, chiaramente. Ma sì, si parla sempre di, ma infatti questo sì. Sono sempre reati ovunque. Noi alla fine cosa facciamo? È reato mettere uno striscione, è reato contestare, aggredire un reato, aggredire, usare toni violenti è un reato. Scusi Cabras, che cosa avete contro il prete, quello là, Biancalani? Cioè... più parla, meglio è, cioè chiamatelo tutti i giorni, perché più parla, più la gente ci dà ragione. Questo lui come fiano. Questo non credo, questo per fortuna non credo, rimane un paese civile. No, questo ma qui. Guarda, basta andare nella, allora appunto. Guarda, io la dico tutti, no, io penso che questo movimento vada messo fuori legge. Noi, appunto, non siamo, io non voglio interloquire con lui, io parlo con Cruciani, non parlo con questo signore. Era plateale, io non parlo con non questo signore, non posso dialogare con Forza Nuova, perché per me Forza Nuova è fuori dalla legge, quindi io parlo solo con chi sta dentro la legge, nel perimetro democratico, nel rispetto delle idee altrui anche diverse. Forza Nuova è un partito Male. Per me, dopo tutto quello che avete fatto, dovreste essere messi al bando. Ma questo è un altro discorso. Ma cosa abbiamo questo fatto? È un altro. No, non parlo con lei, parlo con Cruciani. Parlo solo con Cruciani ed esprimo un'opinione. Cabra, sì, non ho capito una cosa, però la cosa. Tu più volte hai detto che il Duce ha fatto delle cose buonissime. Appunto. Ti sei... ma questo lo pensano tantissime persone. È una cosa ovvia, scontata. Ormai. Cioè, ti sei dichiarato anche fascista. Non fa neanche notizia. Diciamo. Ti sei dichiarato anche fascista più volte. Cioè, secondo te Mussolini è stato un grande statista? Su questo non c'è... Sicuramente. Mussolini è uno dei miei riferimenti politici, forse anche proprio il massimo riferimento politico. Sicuramente è un uomo che per l'Italia ha dato più tanto di questo, ed, cosa deve stato dire? Anche, ed è stato anche ucciso per l'Italia in maniera veramente volgare. È stato più ucciso per l'Italia. Ma le camere a gas sono esistite? I tedeschi che hanno venduto ai tedeschi, hai svenduto l'Italia. Le camere a gas sono esistite, Cabras? Cioè, è una domanda, secondo te le camere a gas, cioè, ma alla gente cosa gliene frega delle camere a gas? Ma basterebbe dire di no, sono esistite le camere a gas, sì o no? Ma guarda, personalmente non mi interessa l'argomento. Non interessa. Perché ci sono molti ebrei che evidentemente non la pensano come signor Parenzo, che dicono che c'è un'industria, diciamo, su queste cose, le camere a gas non sono esistite. Ci sono molti ebrei che dicono, che affermano questo. Ma perché devi dire delle balle colossali? Voglio capire se secondo te esistono o non esistono. C'è tanta gente, no, tra tu, anche tu. Molti ebrei. Io personalmente non è un argomento che mi appassiona molto. Mi sembra tutto molto chiaro. Sono esistite o no le camere a gas? C'erano o non c'erano? Cioè, sono stati ammazzati 6 milioni di ebrei, sì o no? 6 milioni di ebrei non è una cifra che non corrisponde ai suoi. Non c'erano nemmeno 6 milioni di ebrei in Europa, dove li hanno tirati fuori, nel senso, quindi cioè, non è una cifra falsa. Storici, purtroppo. Comunque, i forni sono esistiti ma o no? I forni cos'è? Cioè, cosa avveniva? La gente veniva bruciata viva nei forni. Sì, ma... forni crematori, sì, esatto. In alcuni campi di concentramento c'era il cinema, c'era la musica di Wagner, tant'è che in Israele era vietato perché mettevano Wagner, c'erano le piscine. Evidentemente, ma queste cose le dicono. I forni c'erano o no? Ma non lo so se c'erano, non ho mai visto un campo di concentramento, cioè, non intendo nemmeno andarmi a fare la gita per poi pulirmi la coscienza. Ma perché non vai ad Auschwitz? Non ho capito, ci sei mai andato ad Auschwitz? Ma no, non ci vado, perché... Ma perché? È un cinema, secondo te, una messa in scena? Ma sì, ma guarda, ma lei ci sono deve molte vergognare. Persone che parlano appunto dell'industria dell'Olocausto. Vergognare. Ebrei. Sono esistiti, si deve vergognare. Io non ho capito una cosa, non ho capito questa cosa qua. Sono esistite le camere a gas, sì o no? Personalmente ho molti dubbi, non ritengo che ci fosse la volontà di mi pare più che sufficiente, direi, per chi bene, se ci ascolta la procura. Divorzio, mi pare più che sufficiente se ci ascolta la procura. Guardi, lei è una vergogna umana. Mia nonna è stata in campo di concentramento. Sì. Lei per quello che ha detto mi fa umanamente schifo, proprio schifo per quello che ha detto. Mia nonna è stata in campo di concentramento. No, ok, un ripeto, cazzo. Mia nonna è stata in campo di concentramento e non se l'è inventata. Non se l'è inventata, ha capito? Ha capito o no? Non se l'è inventato! Ha capito? Non se l'è inventato! E mi auguro che ci sia la procura all'ascolto e mi auguro che questa persona venga indagata. Me lo auguro. Sì, non sono unici strumenti, quelli della democrazia sono. Altro che di un signore che nega l'Olocausto. Pensa a te. Non ho capito sta cosa del cinema d'Auschwitz, le piscine. Il cinema c'era. Il cinema per le SS c'era il cinema. Ma dai, ma vedete che alla fine siete Ma vedete che cosa? Hai parlato di cinema e piscina, ad Auschwitz. Roba incredibile. Ho capito, perché tesi, Giuseppe. Ma ci andavano le cose, ci andavano le SS al cinema, mica ci andavano gli ebrei. Ma io non posso parlare, non parlo con uno che dice che in campo di concentramento c'era il cinema, ma non mi confronto neanche. A me questa roba qua mi fa schifo. Allora bisogna fare appunto. Quindi io, se parlo con un comunista, la prima cosa che devo dire è parlami dei campi di concentramento. Ma quale comunista? Ma io non sono mica comunista, ma che cosa vuole? Non sei comunista, lei ha negato, lei ha detto una cosa vergognosa, lei ha detto una cosa schifosa, vergognosa, che c'era il cinema nei campi di concentramento. Sono stati ovunque, anche in Italia abbiamo avuto campi di concentramento dove ci stavano persone che stavano, ma non venivano gasate le persone sotto la pioggia, sono state fatte delle cose orrende, sicuramente da dimmi te se non è un movimento da sciogliere questo, ma è da sciogliere come? Ho fatto una domanda precisa, le camere a gas sono esistite e tu hai detto ho molti dubbi. Non è che devo fare l'interrogatorio così. Vabbè, ciao, arrivederci, ciao. Per il tuo cervello scegli il meglio, la Zanzara. la zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. La zanzara. Sì, pronto. Toscani? Sì. Sta attento, bello. Mi sono Mona Veneta e sono qua con Bicere de Terra Crua de Breganze. Coglion, che se lo gasara bene tonte parisi le fotografie, i funerali e i matrimoni. Imbecile che non ci sia altro. Passa qua per Vicenza che vengo a trovarte, stupido de una merda. Io sono senza moglie, senza fidanzata, non ho donne, non sono bello. E il dottore stesso mi dice: senti, devi andarti a fare una bella scopata per scaricare la canna che ti fa bene. Io chiedo a Parenzo, dove vado? Dove cazzo vado? Se io devo scaricare la canna, dimmi solo, dove devo andare? Parenzo, di qualcosa. Mi piace stare nel tuo salotto, stronzo! Luciani, ma va che sei una grande testa di cazzo quando vuoi, però, un'ipocrita di merda. Cioè, se tu mi spieghi perché scopare a scuola sì, fumarsi una cannetta no. Sono tutte e due cose che a scuola non vanno fatte, che gli studenti minorenni o maggiorenni, comunque sotto la tutela altrui, non dovrebbero fare. È indifferente che lo fai davanti agli altri o nascosto, perché se poi scopai in bagno, e va bene scopare in bagno, allora mi fai fumare anche la cannetta nascosta nel cortile, perché non so dove sei andato tu a scuola, puritano di merda, ma dove sono andata a scuola io, caro il mio Cruciani, avevo dei cortili belli ampi dove trovavo angoli dove potevo non solo fumarmi le canne, ma anche scopare e fumarmi la canna assieme. Quindi o entrambi o nessuno dei due, se no sei un ipocrita di merda. Allora ragazzi, io non ho detto che è cosa buona e giusta, eccetera, che bisogna farlo per forza. Sto dicendo che c'è un'evidente differenza tra due ragazzi che dentro una scuola, parliamo per esempio del Virgilio di Roma, si mettono dentro un bagno a consumare un rapporto erotico, che chi se ne frega, se sono minorenni sono cazzi loro, delle loro famiglie, insomma. Non lo so. Vabbè, anche ma della delle famiglie che le hanno affidati alla scuola, e quindi ovvio che la scuola deve prendere provvedimenti. Ma sto dicendo, questo è normale. Dentro un bagno, non davanti a tutti, e tra gente invece che comincia a scuola non si può fumare. Scopare non lo so, nascosti può darsi. No, neanche quello, ma insomma, io voglio sapere dove porto mia figlia a scuola, in una scuola pubblica o privata, tanto che sia. Ma tua figlia, se vuole scopare, a un certo punto scoperà. Ma ho capito, uguale, ma io voglio sapere che se va, ma io non sono però così distaccato dalla vita delle mie affetti, cioè voglio sapere che se la porto là ci sono delle regole, ci sono delle persone che comunque ci controllano. Vuole delle regole, ma la gente mica cresce, vuole, ma per forza, ma mi pare evidente, vuole perché voglio regole. Educare i miei figli. Se tu non li vuoi educare, falli educare dalla tua Filippina. Io voglio educarli io personalmente, e fai male. Non è Filippina, è una persona italiana peraltro, ancora ma non li educa, di Sabaeta, ma non li educa, li educo io, non li lascio educare a altri figli. Vabbè, per dire che anche quando li porto a scuola voglio sapere cosa succede a scuola, no, è ovvio. Ivan Trapani, Ivan. Allora Ivan, che cosa volevi da me? Non ho capito. No, io voglio semplicemente che dici: io, Beppe Cruciani, chiedo scusa a tutti i muslim del mondo. Senti, a parte che le cose a comando non le faccio, primo, per cui non devo chiedere scusa a nessuno, devono chiedere scusa eventualmente quelli che hanno fatto circolare la notizia, ai politici che l'hanno cavalcata. Noi ieri l'abbiamo presentata questa notizia della sposa bambina con un uomo di 35 anni musulmano, l'abbiamo presentata come tu fosse l'hai vera presentata. Come presentata fosse bavando, vera lì. No, ma bavando. Che cazzo c'è? Quelli sono i miei modi di fare la radio, non ce l'ho per i coglioni. Allora, la cosa che cosa vuoi? Non ho capito. Che sbavando? Ho detto sempre qual è il problema? Dimmi. Questo è cazzo di fake news. Ma che non esistono le fake news. Questa cosa qua è false, le cose vere. Questa qua sembra sia falsa, perché poi tu hai informazioni che noi non abbiamo per dire sempre. Ho detto all'inizio, qualche minuto fa, ho detto che chi ha diffuso la notizia, i giornalisti di un quotidiano che si chiama Il Gazzettino, dicono, prima di aver diffuso la notizia, che le notizie erano arrivate da fonte certa, e dunque loro sono ancora certi di questa notizia, perché si fidano di questa fonte, e si scusano se la notizia dovesse risultare falsa. Dunque non c'è ancora allora una... Allora non è sicuro che è falsa. Ma ragazzi miei, io vi sto raccontando quello che è successo. Dopodiché se è totalmente falsa o se c'è una parte di verità, non lo so. In ogni caso... Quanto ti dispiace? Ma non me ne frega niente. Quanto ti dispiace? Senti Ivan... Dai... Senti, ma non fare il cretino, perché non mi dispiace, non me ne frega assolutamente nulla. Io ho dato per vera questa notizia, come molte persone, essendo stata diffusa da un quotidiano che non è, come dire, non è l'ultimo degli arrivati. C'erano articoli sul Messaggero, c'erano articoli sul Gazzettino, c'erano articoli un po' dappertutto sul web. Dopodiché, in giornata, ieri abbiamo subito posto dei dubbi, in particolare Parenzo certamente. Non ne posto alcun dubbio. Io anche vuol dire, ma capito? Ma Parenzo fa parte di questa trasmissione, imbecille. Cioè, non è... E allora cosa vuoi? Ma cosa vuoi tu? Ma certo, ma chi ha detto che lo manda a cagare? Io non ho detto che ha ragione. Ho detto che la notizia falsa è stata diffusa da un quotidiano che si chiama Il Gazzettino. Sempre se risultasse falsa. Dunque, cosa vuoi da me? Cioè, non capito che cosa vuoi da me. Cioè, no, voglio semplicemente che questa trasmissione. No, ma non ammetto niente perché non l'ho detta io. Non hai capito ancora. L'ho capito, sì, l'ha detto Il Gazzettino. E allora, comunque non c'entra niente lì, ma in più però non c'entra nulla, a parte quella notizia lì clamorosamente falsa, perché anche la procura, la magistratura, la polizia, nessuno ha confermato quella roba lì. Devo dire la verità, non mi sorprende come cosa, come notizia fosse vera, non mi sorprende. L'errore è esattamente questo, perché in realtà le spose bambine è un fenomeno che non riguarda l'Islam, riguarda alcuni stati teocratici. Che religione c'è in questi stati? Che religione c'è? Anche in alcune zone dell'Africa ci sono, ma nelle zone dell'Africa non c'è l'Islam, non c'è in alcune zone dell'Africa. Dove ci sono le spose bambine, non, che come c'è? L'infibulazione non riguarda l'Islam, riguarda anche alcune tribù africane. Volete che nulla negare hanno, la realtà? Non c'entra nulla con l'Islam. Possiamo attaccare l'Islam su altre cose, ma non Parenzo, su questo. Due punti, le spose bambine non c'entrano nulla con c'entrano l'Islam. Con alcuni stati che danno Pablo una da lettura Pistoia. Dell'Islam da teocrazia fondamentalista, tipo l'Arabia Saudita, ma li distingue. Sono fondamentali però, sennò è tutto uguale. Vai Pablo, dimmi che è sto. Sì, Pablo? Ciao, senti, io volevo intervenire su Biancalani. Sì, dimmi. Io lo seguo perché sono di Pistoia, ho seguito quello che dice. Allora? Secondo me è una persona al cuore d'oro. Poi, sì, certamente. Per quello che riguarda le due... Non si ma sente non è, più ma cazzo. Non è solo del cuore d'oro, è uno che fa una cosa per la collettività. Allora... Sì, certo. Allora, vi voglio leggere una cosa, caro David. La prendo da un libro. Così cambiamo un po' spartito. Vediamo. La parola è cunnilingus. Che cos'è? Cos'è, Carlo? Cosa vuoi che sia, Carlo? Cunnilingus. E che cos'è? Sì, Carlo, adesso te lo spiego. Hai capito? E che cos'è? Ripeto ancora, Carlo, Taormina non capisce cos'è. Cunnilingus. Capito? E che è un bel ambiente. Beh, no, cunnilingus infatti, è una cosa che si pratica in tutte le case. Che cazzo vuol dire, Carlo? Dai. Comunque, la spiegazione è questa: che uno si inginocchi fra le gambe di una donna e come un cane la lecchi è cosa indegna di un uomo. Che se ne pensi, le donne non ne vanno poi così pazze, proprio perché inverte i ruoli e diminuisce il maschio. Il piacere fisico non è compensato dalla perdita di quello psicologico. Alle donne piace leccarsela fra loro, non avere un maschio in adorazione della vagina. Preferiscono di gran lunga il disprezzo verso i loro genitali, le eccita molto di più. Almeno quelle belle. Infatti le donne belle come i ricchi sono masochiste. Se lo possono permettere, le brutte no, sono già troppo umiliate. Per loro effettivamente il cunnilingus può essere un atto compensativo, cioè per le brutte. Un omaggio gradito, un illudersi che ciò che hanno fra le gambe abbia un valore in sé a prescindere dal contorno. Ma per leccare la fica a una brutta ci vuole davvero dello stomaco, oppure bisogna essere della pasta di Don Giovanni, che chiudeva gli occhi per rendere illimitata la propria concupiscenza. Nonostante tutto però la sottospecie dei leccatori di fica è piuttosto numerosa, soprattutto in regioni come l'Emilia Romagna, forse per un compensativo e malinteso senso di reciprocità. Questo vizio da cani è accettabile negli anziani che hanno inevitabili problemi di erezione. Una volta chiesi a un mio amico ultra settantenne che da anni ha una relazione amorosa come se la cavasse, mi rispose molto spiritosamente: beh, adesso lavoro molto più di lingua. Diversa è la questione dell'anilingus, che non è un atto di omaggio verso la donna, ma dispregio. È un ricordarle che, nonostante tutte le sue arie grandiose, anche lei, come tutti, va al cesso. Allora, è una cosa incredibile, veramente anche direi indegna, sì. No, c'ha ragione, cosa, bravo, indegna, scusa, ragione. Non ho capito, questo è un grande ma indegno, pezzo. Ma che allora, ragazzi, stupidaggini, queste volgarità? Cos'è volgarità. Ma una cosa volgarissima. Massimo Fini, dizionario erotico. Massimo Fini, dizionario erotico, chiaro? Massimo Fini, un grande giornalista, dizionario ma insomma, erotico. È una zozzeria. Non è una così, a parte io non sono d'accordo con questa sua definizione del letta così è una zozzeria. Non insomma. Sono d'accordo con questa sua definizione. Non sono d'accordo. Mauro ormai D'Agorizio. ormai è tutto degradato. Ma chi l'ha ormai detto? Questo ma è vero, poi è vero questo. Mauro D'Agorizio. A... Mauro, vai. Sì, pronto. Dimmi, ecco, vai. Volevo dire che è influente che sia un dove fake, sei? In una, stanza che rimbomba tutto? Dove sei? Sì, rimbomba? Non lo so, dove sì, sei? Sì, che c'hai? Cucina. L'auricolare, cos'hai? No, no, niente. Adesso viva voce senti? Di merda? Che cos'hai? Adesso? Sì, vai, avanti. Allora, forza. Volevo dire che è influente il fatto che sia un fake o meno quella notizia. Sì. La verità, di fondo, sì, è che un buon islamico, sì, secondo il Corano, deve seguire quello che ha fatto il profeta nella non sua è vita. Così. Cioè, non è così, cioè? Il buon profeta era un non è così. Ancora con le bestemmie. Ancora con le bestemmie. Ancora con le bestemmie. Ma scusi, ma se qualcuno si mettesse a questionare sulla verginità di Maria, uno giustamente si offenderebbe perché dice lì la questione della lei sta dicendo, lei sta bestemmiando, lei sta offendendo gratuitamente milioni di persone. Questo sta facendo. Allora io le chiedo d'altra parte, senza urlare, no, lei sta offendendo milioni di persone. La storia è vera, la storia è vera. Lei sta offendendo milioni di persone perché lo dice. La storia dice che l'uomo che aveva circa 50 anni lei, ha sposato una di 9 anni. Su questo sta, dice, sta offendendo gratuitamente milioni di persone. Qualcuno dirà si può fare perché in democrazia si può fare. Secondo me no, perché offendere non è mai bello, neanche in democrazia. Non è che in democrazia c'è il diritto all'offesa, non esiste. Offesa, sta raccontando una storia, ma poi non dice anche lo che dice è pedofilo, in senso che è un dispregiativo. Discorso. Allora io dico, se qualcuno si mettesse a questionare offendendo i fondamenti della religione cattolica, certamente non ci sarebbero delle guerriglie urbane, perché non ci sarebbero, ma sicuramente se i cattolici sentissero offesi avrebbero tutto il diritto di tutelare la loro fede cosa e vuoi, di agire in sede penale ma, o civile. Ma sede penale, ma che c'è? Guarda, che sei posso, malato, sei. Però io posso no. Pure posso, in tribunale no. Pure Mauro D'Agorizio. Ma scusami, ma uno perché deve bestemmiare? No, ma no, io non voglio portare, guarda, io non porterò, non porto in tribunale nessuno se non pochissimi, se non quelli che superano il limite. Ma se uno cioè, si sente offeso, quello di Forza offeso, Nuova di prima, quello di Forza Nuova non starà a me perché ha commesso un reato e mi auguro che qualcuno non merita neanche la dignità del mio nome quella persona, che ha detto delle cose che ha offeso me personalmente e la mia famiglia, ma ha offeso non i 6 milioni di ebrei morti, siccome ha offeso l'Europa negando vabbè, l'esistenza adesso, di quella roba. L'Europa. Ma ha sì, offeso perché... l'Europa adesso non beh, esagerare la Shoah è un fatto coglione europeo. Ha detto una cazzata enorme. Ma non, è, non si può tutto liquidare così perché come altrimenti sai, sarebbe tutto ma non come si può sai, liquidare io sono tutto favorevole come... alla libertà di negazionismo come se lo sai secondo l'ho sempre me è detto l'ho sempre secondo detto. Me è una cosa okay. Profondamente vabbè, Mauro non ho capito perché dico, perché stanno già morendo i testimoni della Shoah e si vede cosa no, sta avvenendo infatti ma che c'entra dai certo Mauro non ho capito quando non ci saranno più già oggi è facile negare quelle cose figuriamoci chi ci sono Mauro non ho capito tu pensi veramente che Maometto sia un pedofilo? Chiaramente adesso, uomo, io le chiederei di non bestemmiare più, però veda lei. Io le chiedo di non bestemmiare. Una ragazza, una bambina di 9 anni, è un pedofilo o no? Lei non sta bestemmiando la mia religione, però sta offendendo milioni di persone. Il concetto questo di pedofilia io è un concetto allora nostro, dei nostri tempi, diciamo, non di quelli là. Diciamo, il concetto di termini di pedofilia, allora. No, scusa, Mauro, se qualcuno si mettesse con lo stesso tono suo a discutere sulla verginità di Maria, qualcuno giustamente si potrebbe se qualcuno giustamente ma giusto, Maria, non me ne vabbè, frega lei, un, è, no. Lei è un. È un stai sta bestemmiando di nuovo anche la religione cattolica, non che non è la mia. No, che non agnostico. È la mia. Ma non è che il fatto di essere agnostico l'autorizza a bestemmiare, secondo non me? Perché sei un maleducato. Perché lei è un maleducato. Frega, quindi fa. oltre a rendere ridicolo se stesso, cosa che sta facendo, a risultare un maleducato, e questo è un problema suo. Lei è un maleducato, ma questo sarà un problema suo, di sua madre, della sua famiglia, di chi la conosce, eccetera, della figura di merda che fa, è un problema suo. Il problema è se lei offende altre milioni di persone. Capito? Comunque, lei si è qualificato da solo. Fermi lì. Si è qualificato da solo, per cui sa. Oggi sarò qui a Montecitorio. Se tutti sarete coraggio, scendete a parlare con me. Diritti e doveri, 1.000 euro. Vergogna! E io parlo con la generazione di vostri imputi. Titusi! E io parlo con la generazione di vostri imputi. Titusi! Ho strappato l'Ips. La zanzara. Un attimo dopo stai dando un'altra sniffata al calzino e senza accorgertene non riesci più a smettere di annusare. Ecco, la zanzara è come il calzino sporco. Fa schifo, fa male se vuoi, ma non puoi farne a meno quando hai cominciato. Quindi chi può, non cominci mai. Ma se stai ascoltando questo messaggio, ormai è troppo tardi. Flatulenza is freedom. Ciao da Felix, from Bologna. La zanzara. Ciao Giuseppe, sono Luca da Catania. Ti volevo dire una cosa, un problema che solo tu puoi risolvere. Tutte le notti mi sto sognando quella fruttariana melariana, che dopo averla vista veramente mi sono innamorato in un modo bestiale. Giuseppe, vedi che puoi fare, perché veramente, proprio come si dice a Catania, sono cascato malato per questo. Cioè, gli devi dire, c'è Luca da Catania che vuole l'omolone, cioè digli che me lo dà a me il melone. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao David. Sì, vabbè. Ovo la banana. Sì, ma Luca, se l'avessi vista live come l'ho vista io, per carità, una ragazzina così, cioè, che mi state facendo i versi dal vetro? Cioè, vi piace? Cioè, vi piace Umeluni, vi piace? Pieni di maiali, assatanati. Cioè, che gente gli piace Umeluni, Ma una ragazzina di 25 anni, 26 anni, così abbastanza insipida dal punto di vista così estetico, poi per carità, cioè, veramente una cosa incredibile. Pieno di maiali, non esageriamo. Questo ha chiesto il numero di telefono. Allora, sempre le perle della professoressa De Mari. Non ho capito perché adesso ce l'ha con i trans. Se io dico a un ragazzino che la sua, anzi no, con le madri, cioè le persone trans sono una colpa delle madri stronze e sono peggio dell'ISIS. Senti, se io dico a un ragazzino che la sua finalità nella vita è quella di morire facendo il terrorista suicida, come fanno quelli dell'ISIS, questo si suicida. A scuola gli chiedono se vuole fare l'astronauta e lui gli dice che vuole fare il suicida. Che bravo. Se voi dite a un bambino che lui può essere maschio anche se è nato femmina, questo inizia a fantasticare. Cioè, capito? Cioè, è la colpa delle madri stronze che non bloccano un figlio che magari si sente femmina e invece c'ha il cazzo. È contro tutte le teorie psicanalitiche, cioè, ragazzi, è una poveretta. Io però non mollo, ragazzi, non mollo. Anzi, volevo andare a prima. Dove andiamo? Marco Treviso, vai Marco, dimmi. Ciao Cruciani, intanto dimmi. Mi dispiace che siate un po' sboccati, troppe parolacce. Non ho capito, scusami. Mi dispiace che siate troppo sboccati. Se ti dispiace devi cambiare canale. È molto semplice. Se ti dà fastidio, guarda, ho dei tomi alti così sulle parolacce, sul significato delle parolacce, cosa significano nella psicologia, nella storia, nella filosofia. Okay, dunque, questo discorso qua mi fa solo girare i coglioni e basta. Anche a me fa girare il cazzo. Ho capito. Allora cambia, non ci rompere le balle. Tornando al discorso di prima, dove c'era il tuo caro, incredibile, relativamente incredibile. Comunque, per me è incredibile, ma che vuoi? Non perdere tempo, caro Cruciani. Allora, dai. Mi chiedevo come mai quella sottospecie di mezza sega umana che hai di fianco paragona chi... la Madonna a una bambina. Con chi vuole parlare, scusi? A una bambina. Con chi vuole anni. Parlare? Allora, intanto, si provi ad attivare il cervello, se può, e ascolti 30 secondi qual è il ragionamento, se ce la fa, e poi dopo mi dice se è sbagliato. Io dico, qualcuno potrebbe sentirsi offeso qualora venisse messa in discussione il sacro principio della verginità di Maria. Anche come battuta spesso purtroppo viene fatta e qualcuno potrebbe giustamente sentirsi offeso dalla messa in discussione dello Spirito Santo che bla bla bla bla bla. Cioè, tu dici si potrebbe essere considerata la religione cattolica, esatto, e si bestemmia l'Islam come ha fatto quell'ascoltatore. Io dico quella cosa lì potrebbe essere considerata, secondo me giustamente, perché io sono contro le bestemmie, potrebbe essere considerata una bestemmia per allora, chi Marco? Crede nel cattolicesimo. Marco? Ha capito il paragone qual è? Imbecille? Sì. Imbecille lo dice a qualcun no, altro, specialmente no, quello perché se non capisce purtroppo. Ah, no, non c'entra una minchia, non c'entra. Se non capisce, dai, Tuzzani, cazzo. Allora, spieghi perché non Marco, scusami. Scusami, il paragone non è il paragone dell'oggetto della discussione, la verginità di Maria o il Maometto pedofilo. Lui dice che non si può bestemmiare né l'Islam né la religione cattolica mettendo in dubbio la verginità, eccetera, punto, basta. Ciao Marco, ciao. Allora, io non mollo sul poliziotto che ha lo stipendio dimezzato. Non mollo, caro David. Ma devi dire perché ha lo stipendio dimezzato. No, perché dei magistrati e soprattutto la polizia nella sua... Beh, un TAR, c'è una sentenza di un TAR, mi pare. Ragazzi, anche, no? Ha lo stipendio dimezzato perché ha fatto un video in cui ha criticato la Boldrini dicendo, non era un parlando di risorse. Lui da privato cittadino senza la divisa può fare quello che gli pare, ovviamente. Poi se ne occuperanno altre persone. Vabbè, comunque non nel mollo. Caso se ne è occupata la polizia stessa, che ha ritenuto lesiva della propria... Chiamiamolo in sindacalista, là, quello là combattivo, come si chiama? Tonelli. Sindacalista della polizia, Tonelli. Vediamo che dice, sentiamo. Sì. Tonelli? Sì. Sono Cruciani, come andiamo? Bene, benissimo. Sono sul metro. Beh, benissimo. Qui hanno dimezzato lo stipendio a quel povero poliziotto. Altro che bene, Tonelli. Cioè, va molto male. Adesso io vado bene, se qui salute, ma va molto male ed è una cosa vergognosa. Ecco, ma la colpa di chi è? Della Boldrini? È applicata la legge, ma chi vergognosa? Tonelli, ma che io, dici? La colpa di chi sia è difficile dirlo, perché sta di fatto che sono convinto che se fosse stata fatta la battuta su Berlusconi, sul Bunga Bunga, questo non sarebbe successo. Quindi è difficile dire. E per certo voglio dire... Ah beh, certo che dai... Dai. Su questo voglio dire, le abbiamo viste di tutte sotto questo profilo, ma qui il problema non mi interessa, ma è Berlusconi o non Berlusconi. Il problema è molto semplice, voglio dire, c'è un principio che è di civiltà giuridica, di proporzionalità. Cioè, si può dire merda a un immigrato? Si può dire un uomo in divisa può dire merda a un immigrato? Io capisco che fai il sindacalista, ma non difendi bene la tua categoria, così che è fatta di grandissimi professionisti. Ma forse non fai una bella figura, fidati. Io non la faccio bene, non la fai bene tu la bella figura. Fidati di me, ma di che stai parlando? Perché la tua categoria è piena di grandi e bravissimi professionisti, grandi poliziotti. Non risponde a verità, Parenzo, non mi lasci parlare. Che cos'è? Il problema è molto uno, la persona intervistata dalla stampa di Torino ha detto i poliziotti sono stati correttissimi, cortesissimi, gentilissimi. Cioè l'immigrato, questo significa che quella battuta poteva essere merda oppure quello sbalestrato, sfigatato, poteva essere un italiano di qualsiasi altra, voglio dire, gruppo. Beh, oddio, questo non è un problema. No. Comunque, di colpo della pelle. Beh, comunque non funziona, no? Comunque non è che uno in divisa dice merda a un'altra persona, non sembra, no? Questo qui era un fatto privato, che poi è stato pubblicato, fatto perché non privato. Glielo ho detto, non è pubblicato. Era in servizio, in un'autoregistrazione, non mi interessa niente se eri in servizio. Allora, Tonelli, perché tu quando sei in servizio, Tonelli, le cattate le fai pure quando sei lì a lavorare, allora ne spari. Ma era in servizio, anche tu era sei in servizio, servizio. E spari cattate, allora qual è il problema? Beh, io lo faccio per contratto, però scusami, lui era in servizio. Figlio caro, ma va così. Scusa un attimo, Tonelli, io voglio capire una cosa, ci sono state pressioni della Boldrini per far sospendere questo poliziotto? Sì, per far... io questo non lo so dire, però per certo posso dire, conoscendo quello che è la rancorosità mostrata dalla presidente Boldrini, io poi non ci credo che il dipartimento avrebbe assunto una sanzione, un provvedimento così abnorme, perché qui se io rubo una ciliegia io posso tirarti le orecchie, ma non posso pensare di spararti alla nuca, perché allora quando prendo della gente che va a rubare cosa devo fare? Allora il problema è un problema di proporzionalità. Cioè, secondo te che cosa bisognava fare? È abnorme, quindi quella persona persona dovesse essere sottoposto ad un procedimento disciplinare, ci sta tutto, ma io qui non sono a fare una difesa. Cioè, tu dici ma se per una battuta di hilarità sospendiamo e licenziamo una persona, allora nel momento in cui uno commette un illecito la uccidiamo, non è stata licenziata, per fortuna. Non è stata licenziata, è stata sottoposta a procedimento disciplinare per destituzione. Certo, se questo qua lo cacciano, che cosa fai tu? Che cosa avete intenzione di fare? Io? Non lo so, ma faccio il diavolo, quello è sicuro. No, ma se concretamente ti incateni, ti fai lo sciopero. Non lo so, adesso le vene mi scoccio a tagliarmele, però voglio dire, qualcosa mi inventerò. Di sicuro coinvolgerò al massimo l'opinione pubblica, perché questa è una vergogna. Dimezzamento dello stipendio è un'esagerazione. No, che poi tra l'altro è un terzo dello stipendio, perché visto che l'accessorio è una parte consistente, notturni, festivi, reperibilità, colazioni, lui è un terzo di stipendio dovendo mantenere tre figli, con il rischio di dover perdere addirittura il posto di lavoro. Mi dispiace, ma quello io voglio capire una cosa, certo, non hai niente da dire, non hai niente da dire sul picchetto della polizia a Barbara D'Urso? È uno schifo. Uno schifo, eh? Ma chi l'ha deciso? Ah, certo che è uno schifo. Chi l'ha deciso? L'ha deciso, non lo so, da quello che mi risulta è stata la dottoressa Falcicchia. Poi vedremo. Autonomamente, da quello che mi risulta, il questore non sapeva niente. Dicono che era un cambio di turno. E mia sorella? Beh, in che senso tua sorella, scusa? Non lo so. Che è una cazzata, che è una cazzata. Ma è una cazzata colossale. Guardiamo l'orario e poi lo vediamo subito. Cioè, il cambio di turno c'è alle 13. Da quando qua si fa il cambio di turno in picchetto, in fila, biciclette, motorini, motorette e motoroni? Va bene, ciao tesoro, ciao. Ciao caro. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. La Zanzara. Giuseppe, ciao. Guarda, io ti denuncio, eh. Paolo da Mantova. Ma non è che la domenicana che ti ha messo la figa in faccia invece ti ha messo le palle, non è che ti stai a sbagliare, no? Occhio! Buonasera, dottor Parenzo. Ho seguito il suo consiglio e sono andato a cercare Mauro da Mantova su Google. E in effetti le devo dare ragione. È veramente un cesso. È una testa di cazzo, mente catto, palla di lardo e ha la voce di Vanna Marchi. Ciao merde, continuate così. Attacchi a Mauro da Mantova, caro Parenzo. Intanto, in una lunga discussione su Sticchio e altre cose ancora, interviene come al solito il karma. Questo è il suo editoriale. Ragazzi, ma in questa Italia de merda che tutto va al contrario, a nazionale che non andiamo ai mondiali, l'agenzia del farmaco che se ne va al paese dei mignotti e da droga le canne, io ce l'ho sempre un grande pensiero per risollevare sto paese di merda. Legalizzare un Sticchio in tutte le sue forme. Come ho detto una volta, mi propongo per un'Italia repubblicana e più democratica, ministro dello Sticchio. Che la pace sia con voi. Che la pace sia con voi, amici miei. Viva lo Sticchio! Viva la donna! E abbassi i frosci. Per me, poi per l'altro facessero come minchia gli pare. Se gli piace pigliarlo, toccarsi loro. E comunque, viva il Pio! Allora, caro David, filosofi, chiamano dei filosofi proprio. Diciamo solo una cosa: c'è un grande ascoltatore della Zanzara che ti saluta e ti abbraccia. Bene, molto bene. Che dobbiamo salutare con grande affetto, che è Fabrizio Frizzi. Che... Beh, amico mio, sì. Ti stai messaggiando con Fabrizio? No, no, però so che è un nostro grande ascoltatore, l'ho visto e per fortuna ora sta meglio. L'hai visto allora? L'hai visto? Ora sta meglio. Ma l'hai visto, sì o no? Grande... No, di persona no, di persona non l'ho visto, ma so che sta meglio perché c'è un grande amico comune. Quindi, lui no. ascolta sempre a quest'ora la Zanzara e volevo dargli il nostro più grande abbraccio. Ho visto, tutto ho visto non delle foto, mai, ma... assolutamente, ho visto delle foto pubblicate su qualche Forza, settimanale. Fabrizio, avanti tutta. Qualche settimanale in cui sta con la sua compagna, non so se sia compagno o moglie, la bambina. Sì. E dunque, avanti bene, tutta. Eccetera. Avanti tutta, la questione delle spose bambine, però, ragazzi, non è una cazzata. E anche Mattia Feltri si era sbagliato, l'amico Feltri si è sbagliato l'altro giorno a scrivere. Aspetta. Allora, ti leggo cosa ha scritto. Ha chiesto scusa per la fake news, per la probabile fake news, e ha scritto: bisognerà fare in modo che non ricapiti, però date le scuse che rimangono prevalenti, il buongiorno resta intatto, perché il fenomeno delle spose bambine è quasi esclusivamente nella comunità musulmana, quasi esclusivamente nella comunità musulmana. Vedi, beh, siccome è serio, rimane un dato di fatto, siccome è una persona seria, chiede scusa, spiega. No, non ha chiesto scusa. Come no, se per comunque rimane un dato di fatto la condizione della donna a maggior ragione, come segnala per esempio Amnesty International, cioè la situazione delle spose bambine rimane un dato di fatto soprattutto, anzi quasi esclusivamente, nella comunità musulmana. In Africa, molto in Africa. Allora, diciamo. Nadia da Milano, vai Nadia. Anzi, prima, secondo me Nadia, un secondo, è Aldo da Milano. Aldo. Buonasera. Dimmi. Allora, io ti ascolto tutte le sere da 5-6 anni. Stasera bene. Sono io, faccio il cuoco, lavoro con le mani e ti ascolto con le orecchie. Molto bene. Molto bene. Dalla voce capisci che io non sono italianissimo. Io sono 30 anni che vivo qua. Beh, ti chiami Aldo. Ti chiami Aldo. Mi chiamo Aldo perché c'ho un nome difficile da pronunciare e sono conosciuto per il nome di Aldo. Ah, per cui è un nome, è un nome d'arte. Sarebbe il tuo nome? È un nome d'arte. E come ti chiami in realtà? Te lo dirò dopo, fammi parlare perché tu scimmiotti la gente che non sono, sono soprattutto i musulmani. Ascoltami, no, io non sono scimmiotto nessuno. Quando cominci a dire Allah Akbar, così via. E vabbè, scimmiotto, mi diverto un attimo. Se ti vuoi divertire, non ti diverti. Io ti sento tutti i giorni da 6-7 anni. Bene, dimmi. Morale, tu quando parli di paesi musulmani, parli di tutti i paesi musulmani. No, ho detto tutti. Sì, fammi parlare. Marocco, in Marocco per esempio è un po' diverso, dai, in Marocco. Allora, bravo. Ma l'abbiamo sempre detto. Marocco, Egitto. Fammi parlare. Allora? Tu parli delle donne, hai detto adesso che le bambine spose sono quasi esclusivo dei paesi musulmani. Sì, non l'ho detto io, è un dato reale. Ascoltami, te lo dice in milanese. Ti dici di stupidate. Perché? Ma non è così, ma ci sono dati così, accertati su questo. Anche in India ci sono le spose bambine. Ragazzi, là è una priorità, quasi esclusiva di stati musulmani. In India. Vabbè, ma che, non ho capito, Aldo, cosa vuoi? Spiegami. 80 milioni di abitanti. Allora? E ci sono l'infibulazione, le donne che si fanno sposare a 10 anni, anche a meno. Sì, assolutamente. Allora? Sì, assolutamente sì. Sì, allora, ho detto quasi esclusivamente, prevalentemente nei paesi musulmani esistono queste robe qua, ragazzi, ma è un dato reale. Le donne che si ammazzano quasi tutti i giorni in Italia. Cioè, non ho capito, ma che cazzo c'entra le donne che vengono ammazzate in Italia? Ma devi vergognarti se dici di essere tanti anni in Italia. Ma certo che sono più libere rispetto ad altri paesi musulmani. Aldo, ma che stai scherzando? E quali paesi musulmani? Devi specificare. Certamente sono più libere che in Marocco. Guarda, anche il tuo paese. Sono certamente più libere in Italia che in Marocco. Guarda, mi pare che però gli ultimi episodi di mi pare di però sulla cornice non di abbiamo Casablanca, molto da insegnare viste le violenze di dei potenti. Cioè, tu stai dicendo che io sto dicendo che non abbiamo molto da insegnare in materia di violenza sulle donne, perché ci sono una serie di stupratori, diciamo, d'élite tutte le sere. La gente si diverte, non gliene frega niente di quello. Ma certo, che ma chi ha detto il contrario? Allora che vuol dire? Non puoi tu stai dicendo che le donne in Marocco sono trattate meglio che in Italia? Sì, in qualche caso molto, perché sì, sono rispettati. Questo può essere, non vedo cosa stiamo parlando. Da Marocco è un paese abbastanza aperto, mi pare. Nell'Islam, nell'Islam. Senti, ma che c'entra il Grande Fratello? Scusa, che c'entra il Grande Fratello? Perché le donne sono oggetto qua anche di ma sono oggetto nella vostra mente malata di musulmani. Io guarda che io sono più tollerante di te, chi mi conosce lo sa. Io sono molto. Ma che te ne frega della donna oggetto? Perché le pubblicità con le donne nude ti danno fastidio? No, a me non mi dà fastidio, a me non c'è problema. E allora qual è il problema? Non ho capito che. Non dire che la donna è trattata male di qua che altri paesi. Ragazzi, ma dico, ma io sto dicendo delle cose talmente ovvie. Vabbè, ciao Aldo, ti saluto, ti abbraccio. Ciao, ciao. Nadia, vai, Nadia. Ciao ragazzi, insomma, Nadia. Se per incazzarmi devo sentirmi alle palle. Giustamente, scusami, adesso, fermo, fermo, aspetta, fermo. Aspetta. Mi scrive giustamente l'ex inviato di Sky negli Stati Uniti, il mio amico Renato Cohen. Che vuole Cohen. Negli USA sposati 207.000 sì, minori dal 2000. Sì, 25 minori, stati minori, minori, cosa minori, c'entra minori. Le bambine, le cose bambine? Minori. Dai, non diciamo minori, cazzati. Minori. Ma minori, cosa c'entra le cose bambine? Negli Stati Uniti non hanno limite minimo di età per sposarsi. Ne ho parlato al telegiornale l'altro ieri, certo. Grazie a Renato ma Cohen, sì, ma me l'hanno già scritto mille persone, ma non c'entra un cazzo con la... c'entra e come? C'entra e come? Siete ignobilmente, siete, vi arrendete di fronte a queste robe qua. Ma Nadia, no, ma dimmi, Nadia, semplicemente per rimettere le cose un po' in ordine e non fare ma confusione. Ma che stai paragonando alcuni fenomeni minoritari negli Stati Uniti alla pratica delle ragazzi, spose bambine colpisce, nei paesi islamici, ma vergognatevi. Ma colpisce molto di Nadia. Più perché gli Stati Uniti sono un paese civile vicino a noi. Ma Crucianimo è porto cazzo. Chi è? Oh. Nadia, ma sei grazie tu? A Renato comunque. Certo che sono io, certo. Cioè, è dire... il trans Nadia che cambia la voce? Certo. Lo sai che, allora, Nadia, tu sai, devi sapere una cosa, Nadia, che molte persone che mi incrociano per strada, nei ristoranti, nelle poche feste in cui vado, non ce n'è uno che non mi dice io non ci credo. Ah, vai nei ristoranti? No, perché non ci vuoi credere, cazzo? Cioè, qual è il problema? Perché ho le corde allungate rispetto a qualcun altro. Ma come posso fai, modulare però? Come cazzo voglio? Come questo fai a modularle? Problema. No, ma... modulo come voglio, cioè non ho nessun problema. Cioè, come fai a decidere di usare la domanda però è come fai a decidere di usare una corda anziché l'altra? Questo è il no, punto. Non è una questione di decisione di usare una corda piuttosto che un'altra, è riuscire a modulare il suono su una parte della corda piuttosto che dell'altra e far venire fuori una voce diversa piuttosto ma che è no. Pazzesco. Cioè, ma è pazzesca questa cosa, Nadia. Pazzesco. Io l'ho tenuto prima o poi mi hai promesso che vieni qua in studio. No, ma io ci vengo anche perché sono libera adesso, sto senza lavoro. Yuhu, che bello! E che lavoro facevi, scusa? Io stavo in ospedale, però a tempo determinato. Quindi ma tu sei operata? No, non sono operata. Se c'hai il pisello? Sì, certo che ce l'ho, chiaro. E non me lo ricordo, quanto ce l'hai lungo? No, piccolino. Piccolo anche perché comunque non lo uso. Quanti dettagli sono? Ce l'hai atrofizzato dal coso? Dalle medicine che fortunatamente lo Stato non mi passa, che quindi io devo pagare, e io pago per tutto questo. E in più dovrei pagarmi e assorbirmi poi anche un'eventuale spesa per un'operazione. Mi sembra anche una cosa un po' assurda, sinceramente. La De Mari... La De Mari è un'autentica cogliona! È una cogliona! Io pensavo che più nero della notte di Andinolfi non ci fosse. Invece su questo c'è ha ragione, credo. Ti aggiungo una signora o il signore, non riesco Mari. Bene a capire, però ha ragione. Che esce fuori? Signora Nadia ha ragione. Che ha scrivi? Ragione. Che esce fuori, Nadia? Che esce fuori? Se tu scrivi Silvana De Mari sì. Come ricerche correlate ti sputa fuori Adinolfi, ma chissà perché. Eh vabbè, chissà i due vanno perché. A braccetto, si sa. Ma lo so, ma infatti. Però scusa, ti leggo quest'altra cosa. In coppia, ti... è vero. Aspetta, Nadia, ti leggo quest'altra cosa della De Mari sempre sul tema trans. Avete visto il filmato di quel bambino che a 9 anni si truccava? Domanda, dov'è il padre? Quella stronza della madre che dice io non l'ho influenzata. Quanto sei stronza, è colpa tua, dice la De Mari a questa madre di un trans. Quante volte hai detto al tuo bambino dov'è tuo padre? Perché tu che sei madre hai impedito a quel bambino di identificarsi una figura paterna. Non sei innocente, mi spiace, c'è un processo e non puoi nascere maschio se tua madre ti dice che i maschi fanno schifo. Quindi iniziamo a passare ai figli il senso dell'identità. Io non ho capito, nel tuo caso per esempio, i genitori... Allora, nel mio caso, lo dico, è un caso comunque molto simile a tanti altri casi che ci sono stati in Italia e nel mondo. È il caso in cui la persona, quantomeno si accorge in tenera età di avere comunque una sessualità o quantomeno un accenno di sessualità diversa rispetto a quella che può essere la maggior parte dei coetanei o dei quando dei te ne sei accorta tu cambia voce ogni tanto io me ne sono cambia io voce me ne sono ma perché devo cambiare voce aspetta mi sono concentrata mo su no bene hai ragione allora il problema è questo che io me ne sono accorta in età intorno ai 6-7 anni, sai, quando ci si comincia comunque a conoscere, a prendere confidenza. Poi cos'è successo? Che per non ovviamente dare né tanto meno pensieri, né tanto meno comunque sembrare diversa da tanti altri bambini, stai zitta e te lo tieni per te, cosa che fanno molte altre persone come me e che hanno fatto. Accusare un genitore, va bene, di un'identità di genere che comunque viene presa dal soggetto attraverso non c'entra la sua niente, mobilità, dai, su, non c'entra, c'entra un cazzo. È come se io parlassi di fisica nucleare o di fissione nucleare, ne conoscendo. Lei dice che la colpa, la colpa di madri stronze. Tua madre come si comportava quando tu, per esempio, che ne so, ti mettevi una gonna, e cioè come ti chiamavi da maschio tu? Io mi chiamo Vincenzo. Vincenzo da maschio, ma adesso sulla carta d'identità che c'hai? Nadia. Ma l'hai cambiato già sesso? No, ancora no. Ho fatto causa al Tribunale di Milano, quindi sto aspettando adesso che mi diano causa, che vuol definitivo. Dire? La richiesta hai fatto? La richiesta, sì, sì, inoltre una pratica, un'istruttoria che tu devi fare perché sai affrontare. Cara De Mari, questo è il mondo reale! Nadia! Nadia che può cambiare voce quando cazzo vuole, vero Nadia? Ecco, digliela a sta stronza che incapisce un cazzo di niente! A stronza! Glielo posso dire, a stronza! Ecco, sempre la stessa persona, è sempre la stessa persona. Sì, sì, sì, no, incredibile. È una cosa pazzesca, ragazzi. No, vabbè, ma te l'ho detto, in passato l'ho detto che io facevo gli scherzi telefonici, soprattutto quando lavoravo ai call center, no? Amica mia, non vedi con noi sfondi una porta aperta, guarda che ti ingaggio. Guarda, una cosa, io mi sono scompisciata alle risate che tu non avevi idea, questo impazziva dall'altro lato. Ma guarda che ti ingaggio, mi fai venire delle idee pazzesche. Vediamoci presto, vediamoci prestissimo. Dai, facciamo qualcosa. Prestissimo. Ciao, cara. Tieni la banda, insomma, quello che lui ogni tanto troppo sulle righe. Nadia, Vincenzo? No, Vincenzo. Cara Nadia. Ma Vincenzo? Come si chiama Nadia? Non fate casino, mo. Aspetta, Vincenzo. Sì. Dimmi. Sì, dimmi una cosa. Tu sei passivo? Sì, sì, assolutamente. Cioè, attività zero, attività proprio attività zero. Solo passivo. Passivo. Sei fidanzato? Ma dovessi parlare al femminile veramente? Sbagli così. Certo. Vabbè, ho capito, ma sei tu che mi dai. Cioè... Allora, ti dico una chicca: quando ero maschio, sì, ero esclusivamente attivo. Cioè? Funzionava in una maniera incredibile. Ero bisessuale al tempo. Sì. Dopodiché, cioè, lo prendevi anche. Lo prendevi tutti anche. I dettagli, no, però, non è che interessano tantissimo. Lo davo solo. Dopodiché, ho cambiato totalmente anche l'approccio a quello, sì, perché ovviamente avevo bisogno anche di un'esperienza. Io non è che partivo subito, avevo le mie esperienze normali da eterosessuale, come per salvare la faccia, e comunque riuscivo anche bene nell'opera. Dopodiché ho trovata la mia identità e adesso sono diventata completamente passiva. Ciao, va bene? Ciao ragazzi, mi raccomando, rompete il culo! Tra moglie e marito si dice mettiti il travestito. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica, a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.